Giovedì 9 maggio, i titoli, il Sole 24 Ore oggi apre con un'esclusiva sull'IMU legata non però alle case ma alle imprese. IMU, super acconto per le imprese, ci sono tutti i calcoli con aumenti che vanno dal 50 al 200% rispetto al 2012, questo per la rata del 17 giugno. Pagare e zitti, questo dice lo Stato. Corriere della Sera, e qui entriamo nei titoli sulla sentenza Berlusconi. Berlusconi condanna e proteste. Repubblica, Berlusconi un'altra condanna. Il Fatto Quotidiano, Berlusconi delinquente anche in appello. La Stampa, Berlusconi condanna confermata. Libero mette una immagine, un fotomontaggio, un disegno per la verità, di Letta e Berlusconi entrambi in manette, governo in manette, questo è il titolo. Il Messaggero, Berlusconi condannato, è scontro. Il Giornale, sentenza impresentabile. L'Unità, Berlusconi condanna confermata. Il Manifesto, c'è Berlusconi e il titolo interdetto. E poi invece scelgono di aprire con la tragedia al porto di Genova, comprensibilmente il Secolo XIX, quotidiano diffuso proprio soprattutto a Genova, ma non solo, quegli ultimi 45 secondi, questo è il titolo del Secolo, il Giorno, bara d'acciaio e Avvenire, strage al porto a Genova, nave contro la torre di controllo, 7 morti. Prima però voglio partire appunto da quelle notizie che vi rendono la colazione molto molto più digeribile. Io non lo faccio perché non faccio colazione, sono qui per voi e quindi per vendetta, ma perché questo propongono i giornali. Crocetta, Crocetta, la Sicilia, attenzione, sia sul Corriere che sulla Stampa, Crocetta moltiplica i funzionari a Bruxelles. I 3 addetti dell'ambasciata, tra virgolette ambasciata, diventano 16. Ma come? Ma come? La Sicilia del cambiamento. Felice Cavallaro sul Corriere della Sera, pagina 11. Aveva rispedito in Sicilia il giornalista da 12.000 euro al mese, richiamandolo dall'ufficio della regione a Bruxelles, mentre a Palermo liquidava in blocco l'intero ufficio stampa con 24 capi redattori perché Rosario Crocetta aveva giurato guerra agli sprechi, dicendo: ho più giornalisti di Obama. Polemiche, ricorsi a non finire. Ma passati 6 mesi, lo stesso Crocetta che fa? Ricopre la sede di Bruxelles, un modernissimo ufficio da 750 metri quadri acquistato dal predecessore Raffaele Lombardo per 2 milioni e 700 mila euro, decidendo di piazzarvi 16 funzionari, non 24 come gli è scappato di annunciare all'inizio, subito corretto con garbo da Maria Cristina Stimolo, la dirigente generale che fa la padrona di casa in questa piazza d'armi al quarto piano del civico di Rue Belliard, a 3 minuti dalla Commissione Europea. Ebbene sì, perché dovete sapere, c'è l'ambasciata della Sicilia come di altre regioni. 16 nuovi addetti, inclusi i 3 rimasti in servizio, 8 funzionari interni, altrettanti esterni, selezioni, raccomandazioni in corso, avranno più di 46 metri quadri a testa, più di un mini appartamento, ma forse è un calcolo improprio, racconta il Corriere, per questa sede che per ristrutturazione arredi è costata 500.000 di euro con lavori sgraditi alla stessa dirigente Stimolo, pronta a festeggiare domani il suo 50° compleanno. Pazzi, troppo marmo, troppo freddo, così ha detto la responsabile dell'ambasciata in Sicilia. Hanno messo troppo marmo, anche se è marmo di Custonaci, e già, è arrivato fin dalle cave vicino a Trapani, il marmo voluto dagli uomini del presidente precedente Lombardo. Vabbè, anche sulla Stampa, Sicilia, Crocetta porta da 3 a 24 gli emissari a Bruxelles, in realtà sono 16. Ma come? Ma come? La Sicilia della lotta agli sprechi? E vabbè, questa invece è la fotografia dell'Italia, come viene raccontata da Libero, un gran classico, in prima pagina. Lavoratori fannulloni, i giudici che fanno condannano le ferrovie dello Stato. È una storia che è stata rilanciata da vari giorni da Striscia la Notizia, anche ieri. Tobia De Stefano racconta la storia paradossale, ma classica, classica. Quante ne abbiamo sentite così in Italia? Il giudice sta coi dipendenti fannulloni. Una serie di dipendenti dell'RFI, gruppo delle Ferrovie dello Stato, che timbrano il cartellino d'ingresso al lavoro e poi se ne vanno al bar. Le ferrovie le licenziano, loro fanno ricorso, i giudici di Milano gli danno ragione. Morale della favola, l'azienda dello Stato è condannata al reintegro dei lavoratori, a pagar loro un'indennità risarcitoria e a sborsare le spese legali. Lavoratori fannulloni, i giudici condannano le ferrovie dello Stato. Lo trovate a pagina 7 di Libero. Le toghe del capoluogo lombardo non contestano i fatti, cioè dicono è vero, andavano al bar, la condotta scorretta c'è. Ma la sproporzione dei licenziamenti rispetto alle mancanze. Per carità, cari ascoltatori, ne parlavamo anche prima, perdere il posto di lavoro in questo momento è una vera tragedia, in questo momento di crisi. Invece qual è questo messaggio che viene da questa sentenza? Che timbrare il cartellino per un dipendente e andare al bar è una cosa, una quisquiglia, che si può fare. In fondo che male c'è? Dai, sproporzionata la reazione di licenziarlo. Quello stava andando a prendere un cappuccino. Ora bevete il vostro caffè tranquilli, che tra 6 minuti ripartiamo con la politica e la condanna a Silvio Berlusconi. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci qua, allora sono le 7:36 e parliamo la notizia politica del giorno, perché è giudiziaria ma anche dei riflessi politici inevitabilmente, la condanna in appello a Silvio Berlusconi confermata ieri a 4 anni. La sentenza è per i diritti TV Mediaset, come racconta Angelo Mincuzzi sul Sole 24 Ore, pagina 7, nessuno sconto di pena per Berlusconi. La Corte d'Appello ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione, 5 anni di interdizione dai pubblici uffici per frode fiscale. L'accusa era, ed è stato trovato colpevole Berlusconi in appello, di frode di 7 milioni di euro commesso nel biennio 2002-2003, quando in Mediaset si acquistavano diritti televisivi dalle major americane, sovraffatturandoli per creare fondi neri all'estero e evitare il pagamento delle tasse. Ovviamente ci sarà il giudizio della Cassazione, però già Donatella Stasio, in un articolo che trovate sempre a pagina 7 di appoggio alla cronaca giudiziaria, racconta quella che è la prospettiva di un'interdizione dai pubblici uffici, che è quella che più impensierisce Silvio Berlusconi, anche se, qualora la condanna diventasse definitiva, l'ultima parola sulla decadenza di mandato di senatore spetta alla Giunta per le immunità del Senato. Ecco che quindi la nomina del presidente della Giunta, una casella rimasta ancora vuota, è una nomina su cui il PDL in Senato non farà concessioni gratuite, cioè sarà decisivo capire come sarà composta e chi sarà il presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato, perché anche dopo l'eventuale condanna in Cassazione sarà lì che si eventualmente deciderà la decadenza eventuale di Berlusconi dal Senato. La gestione dei tempi per la trattazione della pratica potrebbe rivelarsi lunga, complicata, dall'esito tutt'altro che scontato, racconta ancora Donatella Stasio sul Sole. La decadenza, se tutto ovviamente ci sarà la conferma della Cassazione prevista entro fine anno, potrebbe avvenire la decadenza tra l'estate e la fine del 2014, sempre che la Cassazione riesca a occuparsi del processo Mediaset entro la fine di quest'anno. Insomma, c'è da dire che poi per la condanna a 4 anni Berlusconi, come tutti, beneficerà dell'indulto, quindi sconto di 3 anni, quindi scende a 1 anno. Però attenzione, sempre Donatella Stasio racconta che per il combinato disposto, se ci fosse una condanna superiore ai 2 anni nel processo Ruby, che va a sentenza tra pochi giorni, allora questo farebbe rivivere in toto la condanna a 4 anni, cioè non potrebbe beneficiare dell'indulto. Sono questioni giudiziarie, di regolamenti, di leggi, che potrebbero però portare Berlusconi a far vivere tutta quella condanna di 4 anni. Insomma, tecnicalismi che però non hanno avuto grande risonanza, almeno fino a questo momento, a livello politico. Anzi, c'è da registrare proprio dai giornali questo silenzio stranissimo. Intanto Berlusconi stesso si sfoga in privato, come racconta il Corriere della Sera con Paola Di Caro a pagina 3. Lo sfogo del Cavaliere è un obbrobrio. è una sentenza uguale a quella del primo grado, anche nelle virgole, come dire, era già stato tutto deciso, vogliono distruggermi per via giudiziaria, una sentenza scontata e già scritta. Non dico la soluzione, avrebbe detto Berlusconi, ma non sarebbero mai arrivati a tanto, ma aver ribadito anche nelle virgole la sentenza di primo grado, senza nemmeno qualche mese di sconto di pena, e soprattutto aver riconfermato quella vergogna dell'interdizione ai pubblici uffici, per me è intollerabile, insopportabile, può avere effetti molto gravi. Così si sarebbe sfogato Berlusconi coi suoi, ma pubblicamente neanche mezza parola. Sì, qualcuno dei suoi ha attaccato la Santanchè, qualche altro politico del Popolo della Libertà, ma anche i suoi avvocati hanno detto sentenza già scritta, ma proprio tutti fanno registrare questo silenzio tombale da parte di Berlusconi. Anche Libero, infatti, titola pagina 2: è una porcata, questo è lo sfogo coi suoi, ma non darò alcun alibi. E anche il giornale a pagina 3: il Cavaliere, giudici prevenuti, ma il governo non rischia. Silenzio tombale anche dal Partito Democratico. D'Alema subito ha detto: non commento sentenze e processi. Repubblica lo fa proprio notare nel retroscena di Francesco Bei e Carmelo Lo Papa. PD in silenzio. Addirittura qualcuno prova a intervistare Filippo Bubbico, vice ministro, lo fa La Stampa con Francesco Grignetti a pagina 9. Eccolo qui l'inizio della telefonata. Vice ministro Bubbico, ha sentito, il tribunale ha appena confermato la condanna a Berlusconi. Silenzio. Vorremmo capire con un esponente importante del PD se temete dei contraccolpi sul governo. Lei mi vuole portare in mare aperto. Questa è la risposta di Bubbico. Beh, mi dica un ragionamento a caldo. A caldo dico che a malapena ho saputo che c'è stata la conferma in secondo grado. Cioè, avete, capite la cautela, c'è il governo delle larghe intese. Quindi tutti silenti, tutti zitti, come quella tranquillissima pace che c'è poco prima che si scateni una guerra. Sembra proprio questa sensazione, ma per il momento grande silenzio, anche secondo Francesco Verderami, uno sempre molto attento a capire gli equilibri, a raccontare gli equilibri della politica, pagina 6 del Corriere della Sera. Alfano rassicura Letta sul governo. Cresce però la fatica dell'alleanza. Insomma, è solo Libero che si è spinto in prima pagina a raccontare con un disegno di Letta e Berlusconi in manette, governo in manette. In realtà pare che non ci sia, insomma, questo almeno subbuglio, almeno a giudicare dalla prima reazione a distanza di poche ore dalla sentenza. Staremo a vedere se, come racconta sempre il giornale, Berlusconi invece è pronto a dire il governo può cadere sull'IMU e le tasse, e cioè, come dire, non su queste cose giudiziarie. Una calma irreale, questa è la situazione politica. Intanto il PD forse si deve concentrare. Intanto, premessa per chiudere la parentesi con la giustizia, invece è stato nominato, ce l'ha fatta Francesco Nitto Palma a essere nominato presidente della Commissione di Giustizia al Senato. Sarà nostro ospite alle 8:15, ci racconterà come ha vissuto anche questi giorni in cui è stato definito impresentabile, indecente. Poi ce l'ha fatta perché alla fine si è dati al ballottaggio, i voti del PDL, aiutati anche dai voti dei montiani, lo hanno fatto eleggere. Dicevo, il PD, forse il PD è tutto concentrato a sabato. È un partito che, per stessa voce di Repubblica, giornale quotidiano vicino a quello che succede nel Partito Democratico, è un PD che è vicino al disfacimento, dove si va ormai alla conta, e sabato si dovrà decidere chi è il reggente, colui che dovrebbe sostituire il segretario Bersani per traghettare fino al prossimo congresso. Ebbene, per Repubblica è una corsa al buio per la segreteria, spuntano Fassino e Chiamparino, questi sono i nomi nuovi che salgono. Ieri per tutta la giornata è salita di quotazione Anna Finocchiaro, su cui addirittura Renzi dichiara di non porre veti, proprio Renzi, al quale la Finocchiaro ha dato anche del miserabile. Tramontata però poi Finocchiaro, è salita anche un'altra ipotesi, quella di Speranza, l'onorevole Guido Speranza, cioè Roberto Speranza, il capogruppo attuale del PD alla Camera. Roberto Speranza potrebbe essere lui. Dopo un po' anche lo stesso Renzi, secondo il Fatto Quotidiano, sarebbe abbastanza pronto ad appoggiarlo. C'è anche il nome di Gianni Cuperlo, da Lemiano, sono a disposizione, dice. Ieri si sono affacciati anche questi due nomi, Fassino e Chiamparino, quindi l'attuale sindaco di Torino e il precedente Chiamparino, che sembra un po' fuori dai giochi, che però potrebbe rientrare come, diciamo, persona di esperienza e gradito a molti, che però, ripeto, pare un po' fuori dai giochi. Si vedrà sabato. Certo, in un retroscena firma Goffredo De Marchis su Repubblica, pesa sul PD che cosa? La guerra, definita addirittura a tutto tondo, tra D'Alema e Bersani. Scoppia la guerra tra D'Alema e il segretario dimissionario. Il PD sembra finito, liquefatto, scrive De Marchis su Repubblica. Non si capisce come nei due giorni che mancano all'Assemblea Nazionale possa essere rianimato. Da chi? Da come? E come? Si consumano vendette tremende dopo la partita del Quirinale, i 101 franchi tiratori. Bersani ha messo nel mirino D'Alema. E viceversa, l'ex premier D'Alema è fuori da tutto, lo descrivono furibondo. Al segretario uscente rimprovera la condotta per l'elezione del capo dello Stato, ancor prima l'esclusione dalle liste elettorali. Il suo nome non sarebbe mai stato proposto a Berlusconi per il Colle, malgrado una consultazione riservatissima tra i grandi elettori condotta dai capigruppo lo avesse inserito di fatto nella rosa. Bersani invece vede la mano di D'Alema nella vicenda che ha portato alle due dimissioni. Presto risolveremo il problema, dicono velenosamente i bersaniani. Insomma, si va, secondo Repubblica, una resa dei conti anche sullo sfondo, uno scontro D'Alema-Bersani davvero epocale. Questa è la politica e intanto l'economia e la cronaca. Beh, l'economia, ripartiamo dopo il traffico dal Sole 24 Ore, che oggi ha un'esclusiva sull'IMU. E allora l'IMU, tutti a pensare all'IMU sulla prima casa, è importante, però insomma forse si sta esagerando, visto che si parla sempre di 4 miliardi di IMU sulla prima casa, quando la spesa pubblica è 800 miliardi. E poi oggi il Sole 24 Ore accende i riflettori su un IMU di cui si parla invece poco, l'IMU per le imprese. E in prima pagina il titolo, vale a dire, IMU super acconto per le imprese. Poi a pagina 2 e 3 con la firma di Gianni Trovati c'è il racconto grafico per grafico con esempi di come ci sono i rincari dal 50 fino al 200% per le imprese, per i capannoni, per gli alberghi, i centri commerciali, i negozi, gli uffici. Mentre tutta la politica, racconta Trovati, si concentra sulla sospensione a conto IMU per l'abitazione principale, i tecnici studiano le modalità per compensare i comuni e la polemica tra i leader mette in gioco la sopravvivenza stessa del governo, nel silenzio generale le imprese sono chiamate alla cassa per il primo versamento del 17 giugno. Per i capannoni non solo non si parla di sospensione, ma le regole già in vigore preparano una doppia stangata. E ci sono gli esempi. Per esempio, a Milano, in un'area industriale, a giugno 2012, cioè l'anno scorso, già un capannone si è versato quasi 12.100 euro. Cioè, rispetto alla vecchia ICI, si è impennata dell'82,4%. Quest'anno, sapete quello che ha pagato 12.100 euro, per esempio, quanto pagherà Milano? 18.250 euro, un nuovo aumento del 51,1% rispetto a 12 mesi fa. Insomma, un super aumento del 175,6% rispetto ai tempi della vecchia ICI. Questa Milano, certo, c'è l'aumento e poi c'è l'aumento, racconta Gianni Trovati, il secondo aumento è legato alle addizionali locali. E quindi l'aumento nazionale e poi gli enti locali hanno anche messo il rincaro. Va un po' meglio, ma si fa per dire, il confronto con l'ICI a Roma, Torino e Napoli, più 96,9% rispetto alla vecchia ICI con i capannoni, ma solo perché in queste città, cioè Roma, Torino e Napoli, anche l'antenata dell'IMU era arrivata al valore massimo consentito all'epoca, al 7 per mille, mentre il capoluogo lombardo si accontentava, Milano, del 5 per mille. Comunque trovate tutti gli esempi, se avete un'impresa a Bologna, a Napoli, a Lecce, a Milano, a un albergo, un capannone, un centro commerciale, trovate tutti i dettagli di quanto spenderete, armatevi di pazienza e di magari qualcosa che può servire al mal di stomaco. Voglio leggere anche l'articolo che in prima pagina del Corriere della Sera Francesco Giavazzi rilancia nel suo editoriale. Non è la prima volta, Giavazzi, contro la burocrazia inossidabile che c'è nei ministeri. racconta Francesco Giavazzi che entro il 31 maggio bisogna decidere se confermare gli alti burocrati, i dirigenti dei ministeri. E qui, racconta Giavazzi, sta il problema, perché il monopolio delle informazioni, il vero motivo della potenza della burocrazia. Gestire un ministero è una questione complessa, richiede dimestichezza col bilancio dello Stato e il diritto amministrativo, buoni rapporti con i burocrati, che hanno interesse a rendere il funzionamento dei loro uffici il più opaco e complicato possibile, in modo da essere i soli a poterlo funzionare. Così, quando arriva un nuovo ministro, a ogni sua proposta la burocrazia oppone ostacoli che appaiono incomprensibili. Giancarlo Pagliarini, ministro della Lega, racconta Giavazzi, quando arrivò nel 94 lesse un bilancio dello Stato e disse: bisogna rifare tutto da zero, se continuano a scriverlo così solo la ragioneria generale lo capisce e solo loro decideranno. Qui è la partita, secondo Giavazzi. Fa anche l'esempio di Mario Canzio, attuale ragioniere generale dello Stato, entrò in ragioneria nel 72, 41 anni fa. Da quel giorno la spesa pubblica al netto degli interessi è cresciuta di 200 miliardi, dal 32 al 45% del PIL. Da quando 8 anni fa fu nominato ragioniere generale, è cresciuta di oltre 30 miliardi. Non è venuto il momento di affrontare il ricambio della burocrazia? Cambiare i vecchi burocrati è costoso, perché un nuovo dirigente ci metterà un po' a prendere in mano le redini del ministero, ma è un costo che vale la pena pagare. L'alternativa, chiude Giavazzi, è continuare a non fare nulla. C'è ancora, ma sono in chiusura, la cronaca, la tragedia di Genova. Vi segnalo solo che il Secolo XIX intervista con Simone Traverso Roberto Paoloni. Scusate, intervista non Roberto Paoloni, che era il comandante della Jolly Nero, ma Antonio Anfossi, vale a dire il pilota del porto che era al comando insieme al comandante della Jolly Nero. Non mi sento in colpa, dice Anfossi, il pilota del porto, piango per il che è il momento delle lacrime, piango per i piloti militari scomparsi, con uno di loro avevo cenato l'altra sera, Michele Robazza, adesso non c'è più, ma dice lui la nave era fuori controllo, un'avaria, il cargo non rispondeva ai comandi. E questa è certo una testimonianza importante che trovate sul Secolo XIX, pagina 3, in tutti i porti. Per queste grandi navi ci sono i piloti di porto, persone proprio specializzate a fare le manovre in porto. Dice oggi Anfossi, la nave ha subito un'avaria, non rispondeva più ai comandi. Vabbè, chiudo con lo sport, giusto per dire che ieri bello Balo bis, questo per Balotelli che ha fatto un po' di gol ieri, non so neanche quanti, comunque 4-0 del Milan. C'è una buona notizia anche per gli interisti, non pensate che sia tutto nero, non vedete così tutto nero, ancora due partite e poi per un po' non perdete più.